senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Prometto di parlare il meno possibile, il meno possibile. Parenzo, lo so che sei interessato a queste cose, a discutere dei talk show italiani. Vi parlerò il meno possibile, più avanti nella trasmissione, verso le 8 e mezza, della questione Floris Giannini. Chi se ne fotte? Parleremo di altre cose. E dunque voglio iniziare in questo modo, abbracciando fortissimamente questa donna. È una signora di 63 anni, si chiama Bruna Zan. Tu non sai nulla perché sei lì in Scozia a occuparti del referendum. Ma non è che io non so nulla, di quello che capita nel mondo. Vabbè, ma sì, ma tu ti occupi di massimi sistemi. Io mi occupo anche di cose piccoline ma importanti. Per esempio, voglio, è il tuo bello. Voglio abbracciare fortissimamente questa donna, 63 anni. No, non è un trans, è una persona normalissima, una maîtresse. Cioè una, ecco, che, punto, beh, no, una che ha aperto un bordello da tantissimi anni a Treviso. Si chiama Bruna Zandonà, ha 63 anni, ed è stata condannata a 17 mesi di galera. Non andrà in carcere, per fortuna, perché poi in carcere in Italia alla fine ci vanno in pochi, diciamo la verità. 17 mesi di carcere. Addirittura il pubblico ministero aveva chiesto 4 anni e mezzo. Perché aveva chiesto 4 anni e mezzo? Perché lo sapevano tutti a Treviso, lo sapeva il sindaco, che è uno che insomma le prostitute le frequentava, l'ex sindaco Gentilini, come sai, no? Cioè uno che è andato a prostitute, frequentava i bordelli da giovane, cioè. Insomma, gestiva un bordello dove andavano tutti, dai calciatori ai vecchi. I vecchi spesso, leggeva oggi, per semplicemente per vedere delle belle donne, perché ovviamente a 80 anni magari non potevano scopare. Insomma, Bruna Zandonà, 63 anni, condannata a 17 mesi. Io la voglio abbracciare proprio fortissimamente, perché è una di noi, perché faceva un lavoro come un altro, questo l'ha detto lei, lavoro come un altro. Cioè fare la maîtresse, gestire un bordello nel casino italiano di oggi è esattamente un lavoro come un altro. E questo dovrebbe diventare un lavoro come un altro, solo che i politici ovviamente non vogliono. Sentiamola, perché dice... In fin dei conti i bordelli possono servire anche alle donne, cioè non solo agli uomini che vogliono sfogarsi, agli uomini che vogliono fare l'amore, agli uomini che vogliono trombare, agli uomini che vogliono andare con le donne perché hanno voglia di farlo e per tanti altri motivi, ma servono anche alle donne. Propongo che ci siano anche dei bordelli, come vengono chiamati, per le donne, perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. Beh, ma ragazzi, questa è una frase straordinaria. La vorrei fare diventare quasi una sigla. Perché non la facevo diventare una sigla di questa trasmissione? Una bella sigletta. Una sigletta. Idea. Così voglio solleticare anche la tua parte moralista. La no, tua parte moralista. No, io non sono moralista per niente. Non sei moralista, ma non sei mai andato in un bordello, però. Beh, ho capito, ma mica tutti i ma che c'entra? Provalo, prova una volta. Andiamo insieme. Possiamo andare ma insieme una volta? Non è che tutti sono dei malvissuti come te. Ma no, eccolo lì. Non è che uno, se va in un bordello, è un malvissuto. Per fare l'amore, no, vabbè, ragazzi, però. Di andare in un ma bordello. Non è possibile ogni volta. Volete rispondere voi che ci state ascoltando? Secondo voi, chi va in un bordello? Chi anche solo per una volta? Ma io sono andato. Gente sua, no, ma non è che sono un bacchettone perché no, non ci vado. Aspetta, io sono andato 2 volte. No, ma io mi rifiuto che tu mi dica che sono un bacchettone semplicemente perché non sono mai in un bordello. Ma scusa, no, ma però, no, d'accordo, ma tu vai hai... a quel paese, fuck off, ma vai via, ma no, che cosa tu hai ma noi adesso ci stacchiamo, siamo in Scozia, via. No, però aspetta, io non dico che che tu devi andare per forza. Io dico no, ma non mi puoi dare del bacchettone perché no, ti ho però detto tu dici tu, allora abbraccia fortissimo Bruna, abbracciala fortissimo Bruna, abbracciala. Diventerà una battaglia radicale, una mia battaglia, quella liber, come si chiama sta nonnina? No, lascia perdere, che nonnina, c'ha 63 anni. No, non è prostituta, gestisce un bordello, non è prostituta. La maîtresse nonnina, come si chiama? Bruna Zandonà, Bruna Zandonà. No, però tu hai definito malvissuti quelli che vanno in un bordello, li hai definiti dei malvissuti. E questo è il moralismo. Allora, siccome molti di quelli che ci ascoltano magari l'hanno frequentato. Sono dei malvissuti. Dai, su, ma sei veramente incredibile. Stai insultando migliaia di persone che sono in ascolto in questo momento, centinaia di migliaia, che sono sicuramente andati in un bordello, si sono divertite, non si sentono malvissuti come te. Sospiri, sospiri. C'è già una persona che ci sta ascoltando, che sta un po' friggendo. Adesso ti faccio incazzare con questa roba qua. Il concierge. No, guarda, non me ne frega. In questo momento a me della Scozia, oggi è mercoledì, domani c'è sto referendum, ma non ci rompere le scatole. Domani sapremo il risultato. Io sono a favore dell'indipendenza, per esempio, tu no. Che gli scozzesi in ascolto lo sappiano. Tu sei contro l'indipendenza, io sono a favore. No, ma non ti preoccupare. Allora, ti faccio ascoltare questo signore. Questo signore, cambiamo un po' le carte in tavola. Che ci frega di quello che ha detto Renzi, di Brunetti, di Giannini, di Floris, ma che ci frega a noi? Questo signore è un consigliere regionale, cioè una persona importante, anche come dire retribuita in maniera considerevole, che si chiama Elio De Anna, Friuli Venezia Giulia, dove andrò io sabato a ritirare dei premi. Tu non ci sarai ovviamente come al solito. Questo signore dice che il mare ha fatto il suo dovere, ogni tanto ci dà una mano con gli immigrati, con i barconi, ci dà una mano. Noi andiamo a prenderli, facciamo un servizio taxi. La gente deve capire, io ne ho le tasche piene. Nel senso che la gente deve capire che non è vero che noi andiamo a fare azioni umanitarie. Questi prendono il barcone, sorpassano, appena arrivano al limite delle aree internazionali, chiamano col telesatellitare e noi partiamo con le navi, con le nostre navi, col mare Lorum, non Nostrum, perché io non mi riconosco in questo mare Nostrum, e andiamo a prenderli. Allora, questo è il paese dei... Per fortuna che c'è il mare che ogni tanto ci aiuta. Allora, per fortuna che c'è il mare che ogni tanto ci aiuta, è eccezionale, come cosa. Devo dire, è una battuta... È vomitevole. Scusa? È vomitevole. Ah, lui ha detto che si riferiva ogni tanto c'è il mare che impedisce... Non c'è da riferire, guarda, da oggi non transigo più, non vale io mi riferivo, io intendevo, io volevo dire, è una persona disgustosa e vomitevole. Lui si è corretto, ha detto che si riferiva... radiofonico vomitevole, non si riferiva a nulla si riferiva a quello, a niente. Fine della discussione, chiusa la Claire, Scozia libera. Allora, devo aggiungere una cosa, anzi, lo penso veramente, se con Salvini e Razzi al governo, la signora Bruna non sarebbe stata condannata a 17 mesi, la dico forte Parenzo, con Salvini e Razzi al governo, perché loro vogliono la legalizzazione subito della prostituzione, non ci sarebbe stata nessuna condanna. Ma è con noi il grande Red Ronnie, buonasera. Ciao Giuseppe. Ciao Red, come stai? Bene, molto bene. Senti, ma tu sei a favore della legalizzazione della prostituzione, sì o no? Certo. Dunque, vogliamo fare una battaglia a favore di questa signora condannata a 17 mesi, adesso bisogna vedere bene i dettagli, per carità, però comunque 17 mesi di galera per aver amministrato un bordello. Cioè, ma guarda che alla fine la prostituzione è legale. Quante ragazze ci sono lungo le strade, la polizia passa e non ci fa nulla. Lo so, è così. Senti, Parenzo, sai che oggi saluto c'è... intanto Red e anche Ronnie, tutte e due li saluto. No, ma in che senso, scusa, li saluto tutte e due? Ma tutte le volte che ti colleghi con me, una volta era a Parigi, adesso Londra, ma in Italia mai. Questo non fa un cazzo la mattina. Il nostro è un paese strano, se io preferisco stare... in Inghilterra sicuramente preferisco stare piuttosto che in Italia. Preferisci stare in Inghilterra piuttosto che in Italia? Questo è un paese molto civile. Sai che oggi che è stata organizzata una fiaccolata per ricordare l'Orsa Danica a Parma? Parenzo, lo sai, ma sì. Ma che cazzo c'entra Parma con l'orso? No, no, no, no, a parte che cosa c'entra? Io non so quale ente. Ma Parma farà la manifestazione per no, per l'ha fiaccolata per ricordare l'orso ad Anizza. Ma la gente non ha niente da fare dalla mattina alla sera che andare alla fiaccolata. No, ma per ricordare. Ma lascia perdere Parma. Ma no, anche quello mi fa arrabbiare. Io capisco il Trentino, ma a Parma? Sì, no, questo è vero, però no, sarà io che posso, cioè, non capisco. No, però, ma è la sede di, sarà la sede di qualche associazione, ma sai, ho capito, no? Cioè. Ma perché a Parma? Allora io dico solo, io posso dire una cosa molto chiara: chi va oggi a questa manifestazione per ricordare l'orsa d'Anizza, la fiaccolata, non ha un cazzo da fare, uno scansafatiche che non ha nulla da fare dalla mattina alla sera. Non fa male a nessuno. Nulla, dai. Non ha niente da fare. La fiaccolata si fa, la fiaccolata per i morti in Medio Oriente, si fa la fiaccolata per qualcos'altro, si fa la fiaccolata per una cosa molto, non per l'orsa d'Anizza. Red, aiutami, tu lo so che andresti a questa fiaccolata, lo so che ci andresti. Ma io avrei tutti i titoli per andare a questa fiaccolata, ma sono sicuro che la gran parte di gente che va alla fiaccolata quando torna a casa si mangia una bistecca. Vabbè, questo che c'entra? C'entra. Se parliamo di animali, ok, sì. Allora, l'orsa d'Anizza ha sofferto, ma almeno ha vissuto con i figli, con i piccolini, ha vissuto in mezzo al verde, e tutti quegli animali che sono costretti a partorire in batteria, gli tolgono i cuccioli subito, li fanno crescere anche loro in batteria. Tu mi vuoi dire che chi mangia la carne è una specie di assassino? Certo. No dai Red, non si può dire una cosa del genere. Io questa sera voglio mangiare tantissima carne, caro Red, tantissima carne. Io sono appassionato di carne, carne bianca, carne rossa, io morirò di cancro come dice Veronesi, ma voglio... No, ma non posso essere definito un assassino però, Red. Io ti rispetto se tu mangi carne, ma però dopo non ti devi indignare per i cavalli del Palio di Siena, io? Per gli animali trattati male nei circhi. No, ma che c'entra? Ma guarda, stai bussando alla porta sbagliata, perché a me quando abbattono un animale al Palio di Siena non posso. Vabbè, quello che è, lascia perdere. Non lo abbattono, hanno rispetto dei cavalli, degli animali, li venerano, non sai niente. Ma lo so benissimo. Né tu né Red, Ronny anche. No, vabbè, allora però torniamo, ma mettiamo ordine. Parenzo è per partito preso contro di me. No, ma io ti voglio il bene dell'anima. Io ti voglio il bene che gli inglesi vogliono agli scozzesi, uguale, lo stesso bene te lo voglio io. Ma non è questo il punto. Però Red, scusa, torniamo alla frase che hai detto. Tu hai detto una cosa molto: chi mangia la carne è un assassino. Ma sai, non l'ho detto io. Ma prima non... di me vegetariani c'era Gesù Cristo. Addirittura Leonardo come Gesù da Cristo, Vinci. Gesù Cristo vegetariano? Certo. Ma non sapeva nemmeno che cos'era essere vegetariano, Gesù Cristo. Leonardo da Vinci disse: verrà il giorno in cui tratteremo gli animali come nostri simili. Vorrei ricordarti, visto che guardiamo al passato. Ma perché non ti sposi allora con un animale? Scusa, che c'era un periodo in cui in America, ma anche in Italia, i negri con la G erano considerati animali. Sì. Oggi allora? Un nero è presidente degli Stati Uniti d'America. Cioè, tu stai dicendo che prima o poi un animale potrebbe diventare presidente del Consiglio? Ma sai, non dico questo, però gli animali hanno molta più dignità degli esseri umani. E gli esseri umani non come hanno molta più carne. Dignità? Hanno molta più dignità secondo te? Sì. Cioè tu preferisci una, che ne so, un animale, ma a chi? Che ne so, a una persona che proprio, fammi un esempio. Non sono io, vedi, paradossalmente ha destato più scalpore l'uccisione di un'orsa che quella di tre suore. E cioè? Perché questo? Non lo so, te lo sto dicendo. Come mai? Forse perché la gente inconsciamente dà più rispetto agli animali delle persone. Comunque è allucinante che tre suore massacrate mentre stanno aiutando i propri simili in Africa, la notizia venga ignorata, ci siano le fiaccolate per l'orsa e questa gente quando andrà a casa mangerà carne. Ma questo non lo so, probabilmente le mucche, sì, probabilmente i maiali, gli uccellini, i pesci. Ma gli animali sono un'altra cosa, vanno mangiati. Gli animali vanno, sono lì anche per essere mangiati. Sono sono cose inferiori. Visto, una cosa sono gli uomini, anche i mostri. Parlato, visto che ti ho parlato di Gesù Cristo e tu sei caduto dalle nuvole. Proprio delle bestie. Oh, è nato già un hashtag, Io sto con Bruna Zandonà. Miglioriamolo, miglioriamolo questo hashtag. Io sto con Bruna Zandonà. Bruna Zandonà, libera! Sbordelli in tutta Italia, legali ovviamente, non clandestini. Però se uno lo fa clandestino, violando la legge, poi deve essere protetto, deve essere difeso. Perché offre un servizio come un altro, è come andare a prendere un caffè la mattina, è come un bar. Come entrare in un bar? Uno entra in un bar, perché non può entrare in un bordello la mattina? Vabbè. Siamo con Red Ronnie, il quale dice che chi mangia un animale è un assassino. Sai che, sai Red, che io ho mangiato la carne di, lo ripeto per l'ennesima volta, la carne di cane, la carne di cane in Corea, in Corea. Che, no, ma l'ho fatto per un po' per curiosità. L'ho fatto anche per fare un servizio. All'epoca facevo queste cose, i servizi, quelli che fa Parenzo adesso, i servizi per la radio, per la televisione, eccetera. E sono, che cosa sono? Un mostro perché ho mangiato la carne di cane? Che sono? Ma anch'io ho mangiato tanta carne in passato, poi arriva il giorno in cui capisci, e comunque ti dicevo prima che nella Genesi, quindi la Bibbia ti sto parlando, 1:29 dice: e Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. Non parla di animali Dio. Vabbè, ho capito, c'è la moltiplicazione dei pani e dei pesci, vabbè, lasciamo perdere. La moltiplicazione dei pani e dei pesci è un simbolo, perché Dio, ma Gesù, sì, certo, rappresentava... Ma i vegani, tu sei vegano, ma sono esseri superiori i vegani? Beh, io te lo posso dire, sì. Ma sì, te lo posso dire perché, cioè, ero carnivoro. Sono superiori alle persone, diciamo, normali, che io lo considero normali, cioè quelli che mangiano la carne sono persone, insomma, la persona, allora, la persona normale è la persona che si nutre di vegetali, la persona anormale è quella che fa la carne. Poi chiaramente c'è un grande interesse a far nutrire le persone di carne e a far bere latte e latticini, perché quelli si ammalano, altrimenti è la seconda industria. Cioè al c'è mondo. una grande spectre che ci fa ammalare dandoci latticini, carne, eccetera. E beh, come ci si inventa la guerra, no? Okay, la come guerra... le scie chimiche, la stessa cosa. No, le guerre sono per alimentare l'industria delle armi, che è la prima industria al mondo, e quindi ci si inventa Osama Bin Laden, ci si inventa di tutto. I vaccini, perché l'ISIS, il califfato è un'invenzione. E beh, sono alimentati da chi ha interesse che poi dopo si vendano armi e ci siano guerre. Ah, capito? Cioè è un'invenzione, questa è una teoria diffusa anche, che è un'invenzione dell'Occidente, cioè il califfato è un'invenzione dell'Occidente, questo stai dicendo. Alla fine un'invenzione, no, dilla verità, dilla tutta. È una creazione, non è un'invenzione, esistono. Osama Bin Laden è stato molto creato. Sì, però io dico, quelli che tagliano la gola, per esempio, un po' ce li siamo cercati, ce li siamo voluti, cioè non possiamo piangere per questa roba qua, sono lacrime di coccodrillo quelle che versiamo. Beh, sono creati dai servizi segreti, che hanno interesse che questi qui taglino la gola, mandino questo video, continuano a generare la paura, perché noi siamo governati dalla paura, ogni tanto si inventano una paura. Sì. C'erano le paure delle stradine del sabato sera, poi c'è stata la paura delle AIDS. Scusami, io non capisco perché tu non sei rimasto a bere delle birre al Roxy Bar anziché dire queste cose, non capisco. Vabbè, al Roxy Bar a bere delle birre anziché dire delle cose. Vabbè, di una ma violenza, questa la pensa inaudita. Ma perché violenza? La pensa così, è che... Ma non è che la pensa così, allora Gesù è morto dal freddo, ma che vuol dire? Però Red, io ti voglio dire una cosa, quello che gli pare sempre. Allora Hitler, anche Hitler aveva qualcosa di positivo, perché sai che era vegetariano. Appunto. Ma no, certo, quello era un fatto positivo, ma tutte le persone hanno... Come un fatto positivo? Comunque guarda che sono in tanti a essere d'accordo con Parenza. Ad esempio su internet, no, su Twitter leggo uno che dice, un coglione, perché tanto uno che si firma AL3x1900 dice: ah, ma allora l'account Red Ronnie è vero, sto sparando le stesse vaccate alla Zanzara su Radio 24, vedi? Ti abbraccio, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Che ci siano anche dei bordelli, come se vengano chiamati, per le donne, perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. Nuovo idolo della Zanzara, Bruna Zandonà, 63 anni, condannata a 17 mesi per non so che cosa, non so quale reato, esercizio illegale di attività di prostituzione, insomma, gestiva un bordello, condannata a 17 anni, a 17 mesi, scusate, 17 anni. Io sto con Bruna. I love her, I need her, I see.

Nuovo scrutinio per l'elezione dei giudici della Consulta. C'è l'accordo, ma ancora a rischio stallo. Napolitano, gravi interrogativi, troppi setterismi. Faccia a faccia Renzi Berlusconi a Palazzo Chigi. Sul tavolo non solo la Consulta, ma anche la legge elettorale, le riforme di giustizia e lavoro. Contratto a tutele crescenti per i neoassunti. Sacconi, per loro niente. Articolo 18. Renzi, regole uguali per tutti. La CGIL, scalpo per i falchi europei. Dopo la sfida Grillo sul possibile accordo con il PD per la provincia di Parma, il sindaco Pizzarotti ritira la sua candidatura e smentisce alleanze. Trailer jihadista che minaccia guerra globale, invito ai lupi solitari, attaccate Times Square, Obama vede i generali per coordinare il possibile invio di truppe. 4 milioni domani al voto per l'indipendenza in Scozia, il no in salita nei sondaggi, prevista un'affluenza record e la regina rinvia il ballo al castello. Nuova inchiesta sull'Expo, indagato per corruzione Antonio Cerbo, commissario per il piano acque che avrebbe dovuto collegare i navigli milanesi all'esposizione. Paola da Pisa, Paola! Cruciani. Dimmi. Allora, io sono veramente stufa di sentire su Radio 24 gente che non capisce un cazzo e che parla di animali. Chi sarebbe? Sto parlando di te. Di me? Perché cosa dico che non capisco un cazzo? Scusa. Perché non capisci un cazzo. Aspetta, aspetta che bevo, aspetta che bevo un attimo. Bevo, così mi scaldo, bevo. Parla, sì, tu parla, certo. Dì le tue stronzate, parla. Sì, certamente. Allora, innanzitutto la Zanzara è diventata ormai un programma dove il trend lo dà il conduttore è un imbecille e quindi si circonda di imbecilli, d'accordo? Sì. E in tutti i sensi. E questo? Sì. Bene. Allora, questo cosa? Questo cosa? Animalista? Sì. Io ho provato già a chiamare una volta. Vabbè, non ci interessa, di quello che devi dire, perché sono un imbecille, perché quello perché che diciamo sugli animali. Imbecille perché non capisci un cazzo, perché sei ignorante soprattutto. Ma su che cosa? Parliamo gli animali, sugli che cosa? Animali. Ma che cosa? Perché dico ogni che gli animali sono inferiori agli uomini? Perché dico che vengono prima gli uomini e poi gli animali? Quello, esattamente, prima cosa quella. Tu sei una di quelle che dormirebbe anche con un cane a letto, cioè dorme anche con un cane, sì, secondo ma che me. Male c'è, no, questo? Dormire, sì, non dico dormire, gatti, dormire. Tre gatti, dormire con. Vabbè, i gatti, dormire con tre gatti, va bene, sì, dai. Sì, vabbè. Sì, io dormirei col cane, certamente. È una cosa pazzesca, dai, una puzza orribile, è una cosa agghiacciante, dai, una cosa agghiacciante, una cosa bestiale, sì, una cosa bestiale. Perfetto. Comunque, va bene, se uno non vuole fare, chi se ne frega, se lei vuole dormire, allora, col cane e dorma col cane. Se lei vuole dormire accanto alla merda del cane, dorma accanto alla merda del cane, cosa vuole che le dica? Se le piace così, mica è un problema. L'importante è non rompere le balle agli altri. Arrogante. Ma perché cosa? Scusami, perché cosa? Scusami, spiegami. Ma in generale che significa? Parli di una cosa. Scusi, signora. Io non sostengo assolutamente le follie di Cruciani. Io ma che cosa ho detto di strano sugli animali? Dico quello che penso. Ma che cazzo dici sul palio di Siena? Ma il palio di Siena lo difendo perché è tutto. I senesi, lei non sa nulla sul palio di Siena, perché i senesi hanno un rispetto e una venerazione per i cavalli. Vengono anche benedetti in chiesa prima del palio. Certamente. Non sì, sa sì. nulla certo. Dell'amore per i senesi, il cavallo è sacro più del fantino. Il siccome lei di questo non quindi sa lo nulla, fanno correre, lo fanno addurare, lei guardi sui cani, piazza, gatti, e poi gli sparano? Lei ha tutte le non gli sparano ma assolutamente. Stai scherzando? Lei ha tutte le ragioni del mondo sui cani, mi fa anche piacere dormire, ho un sacco sì. Di amici che hanno cani e dormono coi cani e non è come dice Cruciani in modo così greve con le feci dei cani, perché chi ama il cane lo tiene anche sul letto, lo fa salire la mattina, ma gli si fa leccare la mano. Cruciani è un malato che si deve curare, questo lo sappiamo. Questo lo sappiamo. Dopodiché, invece, per quanto attiene alla vicenda del palio di Siena, siccome sì. Lei della venerazione scusi, che signora Paola, signora Paola, lasciamo perdere il palio di Siena di cui non ce ne frega niente. Però io dico una cosa, no, Paola, a me non me ne frega niente. Non sì. Ho capito che cosa avrei detto di così strano sugli animali. Mi dica una cosa, però, oltre a dirmi che sono un imbecille, un cretino, un ignorante, beh, questo l'abbiamo archiviato. Va bene, mi dica allora, una cosa che ho detto che non va bene. Una. Me ne dica una. La faccenda di Danza. Sì, allora? Hai detto una serie di stronzate. Ma dimmene una, non la dici nemmeno te la ricordi, semplicemente perché non parlo, semplicemente perché non parlo come te e non mi commuovo per la morte di un orso. Cosa? Io irrido quelli che si commuovono e che fanno le marce per l'orso, capito? E non sì, fanno le marce per altre cose. E vado a fare la marcia per l'orso, perché non hai niente da fare, dalla mattina alla sera, capito? Io ho da fare più di te. Ma vattene, va. Ma vai, su. Ecco, abbiamo cominciato con gli animalisti. Ne avrei anche una per Dronni. Sì, aspetta un attimo però, aspetta. Fate schifo. Sì, lasciatevelo dire. Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra? Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra? Ma vi rendete conto che ci sono dei consiglieri comunali a Roma del Partito Democratico, della sinistra in generale, che si oppongono al fatto che venga intitolata una via? A prescindere dal fatto che uno la può pensare in un modo o in un altro, una via per Oriana Fallaci. Cioè, voi vi rendete conto, ci sono delle persone, cioè, le vie sono intitolate a chiunque, anche a mio nonno, anche a chiunque si intitolano delle vie, non è così importante. Però ci sono delle persone che si oppongono, dicono no, accostava l'Islam all'estremismo, come se non fosse accostabile l'Islam all'estremismo in molti casi, e si oppongono a questa cosa, si oppongono a intitolare una via ad Oriana Fallaci, che è stata una delle più grandi giornaliste italiane, a prescindere poi dalle sue idee sull'Islam. Uno la può pensare come vuole, ma si oppongono questi qua, si oppongono. Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra? Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra? Paola, allora dimmi, cosa vuoi da me? Allora, io avevo chiamato ieri. Sì, perché... vabbè, ma non è che hai chiamato ieri, oggi, non è importante. Dimmi, cosa ascolta, c'è? Ascolta, Luciani, ti ci mando a fanculo subito. Ma tu puoi mandarmi a fanculo quando vuoi, perché allora io godo. Se mi... ma io godo, bene, capito? Godo. Bene, benissimo, godo. Guarda, allora, ieri tu hai parlato di una consigliera di non so cosa che propone la creazione di un garante per i diritti animali in tutta Italia. Dico sì, bene? Vabbè, il garante per i diritti degli animali. Sì, certo, l'ha proposto, una follia. Vogliamo dire una cosa? Sono sì. D'accordo con te. Sì, meno male. E allora? Sono d'accordo con te. Ma in te, che cos'è se sarei un imbecille? Perché sarei un imbecille? Spiegami. Perché prima sarei un imbecille? Finisco questo discorso. No, ma non mi finisci questo discorso. No, io finisco questo discorso. E finisci questo discorso, dai. Che non ne possiamo più di garanti noi animalisti, va bene? E che volete invece? Quindi non è che la signora del PD si può illudere di conquistare il nostro voto? E che volete invece dei garanti? Che volete? I cosi? Vogliamo delle persone che facciano i mozzateste, che volete? I mozzateste, che volete? Vogliamo delle persone che facciano rispettare. Senti, le Paola, ma tu che cosa mangi stasera? Cosa mangi sono stasera? Sono vegana. Sei vegana, sì. Sono vegana. Sì, da quando? Già che ci sono, volevo dire anche al signor Dronni che secondo me gli brucia un po' che non l'hanno invitato alla manifestazione di Parma. No, perché Dronni nessuno se lo fila. Dronni sono 40 anni che ci rompe i coglioni col suo moralismo. Sì. E ora vuole diventare il paladino degli animalisti? Per no, favore. È diventato vegano, che vuol dire? Ma vi scannate pure tra di voi, vi rendi conto o no? La follia? Vi scannate tra di voi, la pensate allo stresso modo e vi scannate tra di voi. Per quanto riguarda le Dronni, non c'è un voi, io proprio non lo conosco, non vabbè, mi interessa. Ciao Paola, Andrea da Varese, Andrea. Ciao, siamo qui davanti a Palazzo Estense, ai giardini di Varese. Sì, e allora? Perché c'è Michele Forzinetti, è un mio amico. E chi è? E chi se ne frega? Allora? No, c'è una cosa importante, cioè? Luciani. Perché? Vogliono abbattere i cipressi. Beh, questo è grave, cipressi. Questo è grave però. Ci sono questi 16 cipressi che fanno da intorno alla fontana, qui sono bellissimi i giardini di Varese, sono molto grandi e sono molto allora? Vecchi. Sì. E allora, siccome questi cipressi non sono autoctoni... Sì. E la giunta padana li vuole tagliare. E sono 16 alberi altissimi, vecchissimi. Sì. E vogliono spendere questi soldi per tagliare i cipressi. Vabbè, Andrea, però andiamo al sodo adesso. Qual è il punto? Il punto è che questi soldi potrebbero essere benissimo spesi in un'altra maniera. Cioè tu veramente, adesso tu mi stai perculando, ma veramente tu hai chiamato per dirci che nei giardini pubblici di fronte non so che cosa a Varese vogliono abbattere degli alberi? No, io ti ho chiamato perché c'è un mio amico che è sull'albero a protestare. In cima all'albero per protestare. Ma non è vero, dai, su, non è vero. Ma non hai letto i media? È qua, Ma sì, ma non mi è sfuggito, scusami, non leggo le cose di Varese ogni tanto, non come non leggo. Di male, no, però, è una cosa nazionale adesso, non è una cosa di Varese. È sull'albero. Albero, sì, è vero, sull'albero di Varese, sì, è vero, sull'albero da una settimana, ha fatto anche 3 giorni di sciopero della fame. Sì, ma mi pare un tantinello esagerato. E poi, ecco, come il barone rampante di Calvino. Vabbè, ecco, dammi il cellulare un attimo, passami il cellulare. Passami il cellulare di questo qua. Non vuole parlare, non si può, è su cima. Che vuol dire non vuole parlare? Che sta, se non vuole parlare, non vuole fare pubblicità a questa sua iniziativa. Di che stiamo parlando? Fatto pubblicità, il messaggio passato, il problema è che certe trasmissioni pomeridiane così hanno dato un'immagine un po' distorta e allora lui oggi ha deciso, diciamo, un silenzio stampa. Silenzio, ha deciso il silenzio, no, stampa, scusami, amico scusami, mio. Scusami, ma questo scusami. Ci vorrebbe la no ambulanza, tre il silenzio. Uno sta in cima all'albero. No, questo ti descrivo la scena, Parezzo. Uno sta in cima all'albero, no? A Varese, ma va in cima all'albero perché giustamente dice non devono abbattere gli alberi, esatto, per carità, la natura e tutto quello che vi pare. E siamo d'accordo, appoggiamo tutto quello che vuoi. Ragazzi, dopodiché stanco, a un certo punto fai sull'albero. Vabbè, ho capito. Ha paura di cosa? Ha paura di fare figure. Ma gli sarà scaricata la batteria? Dammi questo cavolo di telefono, maledetto Andrea. Non si può, non si può. È in cima all'albero, gliel'ho già chiesto. Ma ha no, detto, ma avrà cosa? Avrà, gli si sarà scaricata la batteria dopo una settimana, scusa. Perdonami, scusa, perdonami. Oggettivamente, io stavo per appoggiare la battaglia dell'amico e la difesa degli alberi. Perché difesa degli alberi, scherzi a parte, è giusto. Dopodiché, se tu ci chiami e ci dici questa notizia, è importantissima per Varese, per carità di Dio, ma questa ricordo semplicemente che è una radio nazionale. Ma passiamo pure questo. Esatto. Ma se poi, amico Michele mio, Forzinetti mi si chiama, Michele Forzinetti. Chiamiamo a casa di sto Forzinetti, va, che voglio che interpellare. Appellare i genitori, Michele. No, il silenzio stampa di questo signore, no, amico mio, quello no, perché il silenzio stampa lo può fare Ragazzi, Renzi, non è il silenzio stampa lo può fare Berlusconi, il silenzio non è una situazione così facile. Ma è un signore sull'albero. Dai, è sull'albero, non può fare il silenzio stampa, amico mio. Michele Forzinetti, 26 anni, so che non stai ascoltando, non puoi fare il silenzio stampa, perché altrimenti ci incazziamo un po' se fai il silenzio stampa, sì, capito? Cioè, pensiamo, già penso che, vabbè, uno che sta sull'albero, no, non... vabbè, ma vabbè, le follie ci sono, vabbè, fanno parte della vita. Giusta la battaglia. Sì, sì, io leggo qua, il comune vuole abbattere 18 cipressi della California dei giardini comunali, spiega il ragazzo, non sono alberi malati, non, sono solo di una specie non autoctona. Uno ha le sue bizzarrie, le sue cose, d'accordo. No, ma questo può andare anche benissimo. Ci sta bene, però il silenzio stampa no. Ecco, silenzio, quello no. Quello. Andrea, scusami, dacci il numero. Ragazzi, di questo. Fino a domani sera, sì, quando scenderà dall'albero per portare le firme che abbiamo raccolto. Le firme, cioè sempre le firme di mezzo ci sono poi. Sì, sì, perché poi? Per forza. Sì. Le firme per non abbattere gli alberi. Sta facendo anche lo sciopero della fame. A me questi che fanno lo sciopero della fame per gli alberi mi fanno impazzire. È terminato lo sciopero della fame. Ma fatto perché per uno fa lo sciopero della fame per gli alberi abbattuti? Perché? Perché? Spiegami. Questo qua, per esempio, che mestiere fa questo Michele Forzinetti? Che cosa fa? 26 anni, cosa fa? Dovrebbe Michele essere a studiare, a lavorare, a fare qualcosa a 26 anni, o no? Michele ha sempre lavorato, non e è che un fa nulla facente. Che fa? Michele è un istruttore, è un personal trainer di ginnastica, sì, è una guida alpina, sì, è un istruttore di free climbing, ha sempre, sì, lavorato. Sì. E adesso si sta dedicando a questa iniziativa. Vabbè, d'accordo, però non è che l'iniziativa è un'attività, scusami, Vabbè. Amico mio, Andrea, non ci vuoi dare il numero? Ce lo procureremo, tanto sarà scarico il cellulare sull'albero, sbaglio? No, no, perché gli diamo delle batterie, quindi lui è connesso. Vabbè, dammi sto cellulare, su, dai, Andrea. Facebook. Dai, su, che ci divertiamo un po', dai. Guarda, Andrea, mi piacerebbe tanto. Dai. Adesso stai lì un attimo, sì, stai lì un attimo che gli faccio un urlo, eh? Sì, sì. Dici! Michi Cruciani ti vuole parlare alla Zanzara? È una cosa pazzesca, dai, su. Parezzo, ti pare una cosa normale che uno faccia lo sciopero della fame? No, la follia, però. Dai, no, su. Sentiamo. Sentiamo come va a finire qua, Sentiamo come va a finire. Andrea da Varese sta chiamando Michele, che è abbarbicato su un albero. Io parlo con... Aspetta. Io parlo con... Questo quando risponde così, ti ha giuro... Ha detto che lui oggi parla con le parole di Giosuè Carducci. Tu sai che Giosuè Carducci ha scritto una poesia sui cipressi. Sì, sì, lui oggi parla, Parenzo, lui oggi parla con le parole di Giosuè Carducci. Eccolo qua. Senti, amico mio, le battaglie degli alberi io me ne sbatto i coglioni quando uno risponde così, hai capito? Quando uno risponde così, cioè che oggi parla con... Sono quelli di Bolgheri, però, in Toscana, non quelli di Varese. I cipressi, di Carducci. Sì, va bene, d'accordo, è un poeta, scrive le poesie, mi riferiscono questo. Ho capito, ma perché non parla con noi? Perché noi lo possiamo anche appoggiare, ce ragazzi, lo possiamo anche lo aiutare. So, lo so, cioè, ma... perché comunque se uno parla e ha delle ragioni... Ci sono stati degli episodi con la stampa, ma in no... cui le sue parole sono state cambiate, sono state travisate. Siccome lui è da 7 giorni sull'albero, gli sì. fanno male le gambe, c'ha anche qualche piccolo problema. Vabbè, questo che c'entra, scusa, abbi pazienza, Andrea, non c'entra nulla questo. Capito, ha paura di rovinare il suo messaggio, che vabbè, guarda, dire cose che non intende. Tutto ma no, ma noi siamo qui a aspettare, ma non ti preoccupare che in qualche modo ci procuriamo il numero se vuoi, Andrea, non è un problema. Però aiutaci, dacci il numero di telefono, facciamo un tentativo, dai, e poi casomai lui ci butta giù il telefono, che problema c'è? Cioè, non c'è un problema, no? Cioè, se... Ragazzi, io provo. Dai, chiamalo di nuovo, chiamalo di nuovo da sotto l'albero. Vai un attimo sotto l'albero. Fai. Miki, Miki. Dimmi qualcosa da dire. Miki, ti vogliamo, la zanzara ti vuole bene, ti vuole parlare, ti vuole bene. Vai. Non è vero, però è uguale, dai. Io voglio parlare con Michele. Dai. Michele fino a domani. Fino a domani. Ma chi è il portavoce? Chi è la sorella? Chi è questa qua? No, siamo un gruppo qua, siamo un gruppo. Dai, di fino a domani non parla. Ma è una cosa. Parenzo, tu che sei più vicino a queste battaglie, a queste cose, di qualcosa. Sono vicino alla battaglia, io posso capire tutto, ma non il silenzio stampa di un signore arrampicato su un albero. Questo, amico mio, non lo tollero neanch'io. Passami il cipresso allora. Ti passo il cipresso. Ciao Andrea, però resta lì che ti vogliamo, cioè io so che alla fine questo numero uscirà fuori perché vogliamo parlare assolutamente con Michele, come diavolo si chiama. Tu ti devi fare le punture di risanamento del cervello. Che ormai è tutto finito. Noi lo sappiamo bene, caro Cirino. La zanzara di questa sera in collegamento da Edimburgo, David Parenzo, sull'indipendenza della Scozia. Non è indipendentista, io sì, vedi, giochi del destino. Io qui good a Milano. Night, good night. Da Milano, Giuseppe Cruciani, da Strasburgo, nuovo show di Gianluca Buonanno, che parla con il commissario Katainen, quell'anti-Renzi rigorista della commissione, e gli dice: lei dovrebbe conoscere bene il pilota della Ferrari che si chiama Ricchionen. È numero uno, dai. Signor Buonanno? Sì, grazie signor Presidente. Ma io volevo rivolgermi al commissario Katainen, perché da quello che dice, forse lui è abituato a parlare con suoi connazionali. Faccio un esempio, un noto pilota di Formula 1 finlandese, mi sembra che si chiami, scusi la pronuncia, Ricchionen, qualcosa del genere, che guadagna milioni di euro. Beh, Parenzo, ammetti che è un genio, dai, ammettilo, è un genio. No, mi fa, ogni volta che lo fai ascoltare, mi guardo il portafoglio e penso che questa persona la stiamo pagando noi. Cioè, abbiamo pagato dai. Il circo. Sì, no? È un genio, dai, è un genio, ma, dai. Ma è un genio. Piace pagare la gente per dire è queste cose? È un genio, è un genio, dai. Ma lo stai pagando anche tu, furbo d'un furbo? Ma che, sì, vabbè, d'accordo, ma... Furbo d'un furbo, hai pagato uno per fare il circo, ti costa 12.000 euro al mese sto circo, ti costa. È un genio, è un genio. Io se volevo il circo andavo da Togni, eh. È un genio assoluto. C'è uno che parla con Katainen e gli dice lei dovrebbe conoscere bene un suo conterraneo che è il pilota della Ferrari Raikkonen, che potrebbe anche offendersi in realtà. Che lo chiama Ricchionen. Senti quest'altra, Lei perché non viene con me? Io faccio il sindaco di una cittadina della Valsesia, Borgosesia. Ricevo tutti i sabati mattina, quando c'è il mercato della città, in piazza metto un tavolo, 2 sedie e ricevo la gente. Lei parla, ha tutta una sua, diciamo così, pettinatura, dico in maniera un po' scherzosa, sembra che l'abbia leccato una mucca. Venga da me al sabato mattina e vedrà che gli verrebbero i capelli come il figlio del sindaco di New York, Dante De Blasio, perché gli verrebbe una testa così, perché lei non si antepone, non parla con la gente comune, lei parla solo con i grandi burocrati, con le grandi banche che hanno massacrato il paese. Oh, poi ieri da noi ha detto che i gay del suo paese andrebbero schedati, eh? Non lo so, ce ne sarà qualche decina. No, può darsi che siano aumentati. Ma io sì, li schederei. Cioè, gli farei in modo che, insomma, che visto che hanno questa voglia di pubblicizzare il loro amore, il loro, la loro unione, va bene, allora segniamoli su un registro. Siccome parliamo di Scozia, bravo. È con noi Sergio Bortotto, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come va, Bortotto? Presidente del governo veneto provvisorio, se non sbaglio, del governo del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto. Del Popolo Veneto, capito, Parenzo? Scusi, questo? No, stai calmo. Il presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto. Allora, Bortotto, tra l'altro, cosa dice? Ma cosa c'entra con la Scozia? Aspetta, dice, infatti lui dice esattamente quello che dici tu. Dice che no, perché lei dice, Bortotto, se non sbaglio, che il referendum non serve. Giusto? No, per noi no, sicuramente, ma per quanto riguarda la condizione del popolo veneto, assolutamente è un percorso improponibile quello del referendum. E perché, scusi, lei è addirittura contro il referendum, la gente sceglie, stai con noi non oppure stai... No, ma non si può, non si sceglie, non c'è bisogno di scegliere su un diritto che è già sancito per legge, perché il diritto di autodeterminazione è un diritto e quindi il diritto non va chiesto. È scritto sulle norme e diritto. E cosa va fatto? Scusi, professore di diritto, scusi, Bortotto, mi sta facendo girare le palle da subito. Non volevo dire parolacce. Se le fa girare le palle, se le giri da solo, non so cosa fare. Stai calmo, Parenzo. Facciamo l'intervista. Esatto. Però, se volete continuare a giocare, no, io non sto giocando. Bortotto, non sto giocando. Parenzo, stai calmo. Io sono un professore di diritto internazionale. Quindi inutile che venga a sfottere in questo modo. No, però lei ha detto che il diritto. È previsto il diritto, le norme del diritto internazionale lo prevede, il diritto di autodeterminazione, okay, è un diritto previsto da norme. D'accordo, del diritto, però Bortotto, da questo punto di vista non è che ognuno può fare quello che vuole, allora. Esatto. No, infatti non si fa quello che vuole, si può fare solo quello che prevede le norme del diritto internazionale e se lo si fa tramite un movimento di liberazione nazionale, sì, così, che può rivendicare il diritto di autodeterminazione di un popolo, quindi... ok? Sì. E lo fa seguendo le norme di diritto internazionale. Le norme del diritto del paese anche, però, scusami, Cioè lei riconosce la legge... è la Repubblica Veneta, infatti, non ma è l'Italia, cioè, capito? Però... è la Repubblica, la Serenissima Repubblica. Aspetta un attimo, allora, lei dice che... Parenzo, devi stare zitto un attimo, voglio parlare con Bortotto, il quale sostiene che l'Italia non esiste ed esiste semplicemente... No, non ho detto che non esiste, l'Italia è uno Stato straniero occupante la Repubblica Veneta, è diverso, l'Italia è uno Stato straniero occupante, sì, razzista e colonialista nei confronti del popolo veneto. Integra tutte e tre le condizioni previste proprio dalle norme del diritto internazionale affinché un movimento di liberazione nazionale, sì, possa rivendicare il diritto di autodeterminazione. Però, scusi, però Bortotto, che l'Italia sia un paese razzista e colonialista, questo qua lo sostenete voi di questo movimento? Chiaro, ovviamente lo sosteniamo, e l'abbiamo dimostrato con le nostre prove. Quando un questore, okay, straniero, italiano, vieta ai veneti di andare in piazza San Marco per una cerimonia e festeggiare con la nostra bandiera, che non è certo il tricolore italiano, ma è il gonfalone di San Marco, non ho capito, questo non è razzismo, questo non è colonialismo, cos'è? Vabbè, come non lo è chiamate che... voi? Ho capito, che abbia proibito una manifestazione è sbagliato, io lo sostengo da sempre, sono anche a favore, certo, non c'è dubbio, certo. Però che lei ma mi non dica... non è solo questo l'esempio, non è solo questo, ce ne sono tantissimi, ok? Perché il colonialismo è anche un colonialismo culturale che viene fatto nei confronti. Però lei sta parlando una lingua... non è solo l'aspetto militare. Lei con noi sta parlando una lingua che si chiama italiano, cioè la lingua italiana. Vada a ripassarsi anche da dove nasce veramente l'italiano, che c'è stata una mistificazione storica ormai talmente... Ho capito, ma lei che lingua sta parlando con noi, scusi, alla radio? Che lingua sta parlando, Bortotto? Lei mi vuole capire? Sì, certo, lo sto capendo. Se no posso scominciare a giacquare. No, ma le sto... anche in Veneto. E ora me capisci io o te me capisci anche che altri? Non ho capito. Se devo parlare solo perché mi capiscono i veneti, ho capito. Posso parlare in Veneto. Per lei è una lingua straniera, l'italiano, secondo me. Sicuramente, sicuramente è una lingua, è una buona lingua, ma è una lingua straniera. Cioè, come l'inglese, come l'inglese, il francese, sì, eccetera, eccetera. Sì, sì, un attimo sì, solo, mi segua però, non molli il telefono, perché io non sono così ostile a lei, ho azzittito quell'altro, non sono così ostile, perché sono anche a favore dell'indipendenza del Veneto in qualche modo, magari non nelle sue forme, nei suoi modi. Con le donne, perché noi donne, ci sono delle donne che hanno delle esigenze come degli uomini, perché noi donne no e loro sì. Io sto con Bruna, la tenutaria di un bordello, 63 anni, in Friuli, se non sbaglio. Treviso. E che è stata condannata a 17 mesi. Per aver gestito un bordello, capito l'Italia? Io sto con Bruna. Ma abbiamo con noi Sergio Bortotto, presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto, in collegamento da Edimburgo, David Parenzo. Bortotto, quando lei mi dice però che l'Italia è uno stato coloniale, no, non c'è bisogno del referendum, quello lo lasciamo agli scozzesi, e la nostra indipendenza è scritta già nel diritto, è scritta nelle cose, giusto? È scritto. Lei però dovrebbe rendersi conto di una cosa, che non c'è questa massa, cioè non c'è un movimento di popolo, come dite voi, che vuole, no? Che è consapevole di questa cosa qua e che vuole andare verso l'indipendenza. Come mai? Per colpa degli italiani oppressori? Per colpa di chi? Ma cosa è questo, chi lo dice che non c'è questa coscienza di popolo? Il risveglio di coscienza del popolo veneto sta avvenendo, e come anche, e si vede proprio anche per la molteplicità dei movimenti che ci sono, che vogliono rivendicare il diritto di autodeterminazione. Però attenzione, è diverso rivendicare il diritto di autodeterminazione da quello di richiedere l'indipendenza o fare la secessione, come tanto diceva la Lega. Non c'entra. Ma la Lega lo sa che è in Scozia, no? La Lega è in Scozia in massa. Ma sì, ma la Lega è un partito italiano, comunque, ricordatevelo. Italiano, ci vuole, italiano, vuole l'indipendenza, certo, però. Vuole l'indipendenza. Di che cosa l'indipendenza? Del Veneto, di anche. Oppure l'indipendenza? Ma mi faccia una carità, va, la Lega. La Lega è stata a governo fin adesso, l'avesse fatto, perché non l'ha mai fatto. Quindi è inutile che raccontiamo fesserie, è solo una questione, sono solo spot elettorali. Ma lei, per lei napolitano cos'è? Napolitano. Ancora, torniamo. No, ma sono curioso di sapere, napolitano cos'è? Napolitano è il presidente di uno stato straniero che ci occupa, basta, è uno stato straniero occupante. Sicuramente non è il mio presidente. Non d'accordo? È il suo presidente. Cioè, lei ha un presidente? Altro. Ha un presidente, lei un punto di riferimento, chi è? Putin, chi è? Lasci perdere. Noi siamo un governo provvisorio, perché come dice la norma del diritto internazionale. Sì. Okay. Noi ci costituiamo sulla base del diritto all'autodeterminazione, non sulla base del consenso popolare. E le tasse? Però che diritto è? E le tasse? Le tasse cosa? Devi o le tasse italiane? Scusa, fammi capire. No, le tasse, quando lei paga le tasse prova una rabbia pazzesca. Io non pago le tasse all'Italia, non le pago. Inizio che, ma voi ogni volta mi ripetete sempre lo stesso ma disco. Ma no, ma ecco, io continuo. Volete tornare? Parliamo di referendum. Ma continua a non pagare. Ma continua a non pagare, Bortotto. Io questo sono curioso, perché una... Io ho mandato una lettera anche al colonnello della finanza, ho detto sì. vediamoci, ci confrontiamo in televisione. Io ti dimostro che tu sei qua illegalmente e che pretendi tasse dai veneti, ok, e agisci in difetto della giurisdizione, okay? ovviamente non c'è mai nessun confronto televisivo, ok. Anche quando gli scagnozzi, ok, dell'ex questore Carmine Damiano e l'altro farabutto dell'ex procuratore capo qua, chi era? Fogliadelli, no? Quando hanno fatto l'inchiesta io non sulla ho Polizia detto Nazionale niente, Veneta, non l'ho detto io, lo ripeto anche, farabutti tutti e delinquenti, perché quando sarà il momento ne risponderanno innanzi alla giustizia veneta, ok? Questi, ma scusi, questi che hanno fatto l'inchiesta, questi qua si sono inventati tutto, questa gentaglia, questi delinquenti, sono questi che lei si attribuisce la responsabilità. A casa nostra, scusi, questi PM che hanno fatto l'inchiesta, che secondo me hanno fatto una cattivissima inchiesta, tra l'altro, perché alla fine una grande fesseria con però, una scusi, Bortotto, di soldi pubblici. Quando lei dice che risponderanno davanti alla giustizia veneta, che significa? Veneta, veneta. Ma che vuol dire? Risponderanno innanzi alla giustizia veneta, che quando sarà ripristinata la Repubblica, ok, in sì, verranno processati, verranno... Sì, sicuramente verranno condotti e verranno processati dalla giustizia veneta, sicuramente. Ma magari la pena di morte, la pena di morte no, per carità. No, però c'entra la pena di morte, ostrega. E che ne so, non dobbiamo mica regredire su questo, noi neanche l'accettiamo. Scusi, però questo ufficiale della finanza con cui lei vuole fare questo confronto, alla fine, ma gli è arrivata qualche cartella esattoriale a lei o no? No, perché la volete sollecitare voi? No, noi non riceviamo niente. Ma scusi, se non ci presentiamo neanche i processi, ma almeno visto che siete tanto curiosi, sì, avete ascoltato la dichiarazione di sovranità personale fatta innanzi al giudice italiano, che mi pretende di andare a depositare, a dichiarare, a giurare in ambito italiano, che non mi può obbligare nessuno a giurare in ambito italiano. Cioè, manco ci va a deporre. Non solo non ci sono andato, ok? Ma mi hanno obbligato perché sono venuti a prendermi con i carabinieri, no? Ok? E allora siamo andati là, e questi cosa pretendono? Che io giuri in ambito italiano per testimoniare? Ma no, stiamo scherzando? Ho capito, ma qui a un certo punto lei rischia la galera, Bortotto, andrà in galera. Mi faccia il piacere, rischio la galera. E comunque dovessi rischiare la galera, andremo anche in galera se per la patria bisogna far questo. Chi se ne frega o no? Beh, che ne so io, vabbè, ma ho capito. No, Parenzo, sì, no, Bortotto, però mi sembra... No, io molto, molto modestamente, pacatamente, dopo aver ascoltato le riflessioni acutissime dell'amico Bortotto... Sì? Siamo diventati amici? No, amici no. Immediatamente a Riccardo Poli, a Laura Marchese, dalla regia, di chiamare il 118 immediatamente. Scusami, Bortottino mio, scusami. Parlate in Veneto, scusa, no, parlate in Veneto. Dammi retta, ascoltami un attimo. Ti Simona, sento perché ti Simona? Perché ti si drio a raccontare un sacco di monade, sì, ma che manco, manco uno che io riconosco tengo. Ma è chiaro che uno ti sei pagato la tua Italia e te fai ben fare il tuo gioco, tu hai tutto il diritto di farlo, te capisco, guarda, ti capisco. No, io non c'entro niente. Ma la tua non è informazione, invece di offendere ragione. Bortotto, io sono a favore dell'indipendenza. Una cosa serissima, gli scozzesi stanno facendo una cosa serissima, seguendo il diritto, siccome glielo consente. Referendum, ascoltami, pagliaccio, noi non contesto referendum della Scozia, non farmi dire cose che non ho detto, hai capito? Non sai niente, sei qui a parlare di un governo del Veneto che non esiste, fermo un attimo, cosa ci trovi in Putin di buono? Scusami, cosa ci trovi qualcosa di buono in Putin, Bortotto? Ascolta, non sono qua per accettare provocazioni. No, perché provocazioni? È una domanda su Putin. Mi avete chiesto di fare un'intervista sul referendum in Scozia. E quello stiamo parlando. Sì, come no. Come loro hanno fatto un referendum e l'Europa è il primo che non rispetta il volere dei popoli. Quale? Quello dell'Ucraina, sì, certo. Sicuramente, di chiunque, ma anche qua, come quello della Scozia, come quello del popolo veneto, come quello della Catalogna e di tanti altri popoli, di quello del popolo sardo, di quello del popolo siciliano, napoletano, per parlare solo dell'Italia, della vostra Italia. Perché della vostra Italia? Andatelo a chiedere, perché non è nostra, andatelo a chiedere ai veri napoletani, ai veri siciliani, ai veri sardi, ci sono pure i movimenti. Se gli interessa di questa Italia, o se ne vogliono andare anche loro. Però scusami Bortotto, tu vedresti allora, che ne so, una Sicilia indipendente, un regno borbonico? Sì, sicuramente no, un regno borbonico no, ma di nuovo una quello che c'è bisogno, che l'Europa per esempio torni a essere l'Europa delle nazioni, dei popoli, non l'Europa degli stati costruiti con le guerre, ok? L'Italia è un'invenzione, un'invenzione fatta dalla massoneria, dalla massoneria. Scusami un attimo, ma perché moltissimi jihadisti, quelli che vanno a combattere con l'ISIS, erano in Veneto secondo te? No, tu che conosci il Veneto. Ma quali veneti? Destra comunitari, chi si qua? No, veneti, non stiamo di fesserie, dai, ostrega. Perché abita qua l'Orise veneti, no? Beh, veneti, gente, ma non che diciamo fesserie, gente, dai, che si è formata anche la in Veneto. La nazionalità veneta non ha niente a che fare con la residenza e l'occupazione italiana. Diciamo pure la razza. No, non ho parlato di razza, ho detto di nazionalità veneta. La nazionalità è fatta di genti venete, sono diverse popolazioni, diverse genti venete che sono qua, è diverso. Ma uno che c'ha il padre veneto e la madre siciliana, che cos'è? Sì, Senti, ma di cosa volete parlare? No, ma è una curiosità. Di Veneto o di cittadinanza? Cioè, la nazionalità è una cosa diversa dalla cittadinanza. Ah. A me la cittadinanza italiana è stata imposta, ok? Sì. Ok, e quindi chi se ne frega? I confini, i tuoi confini quali sono? Italiano. Ma, ho capito, il passaporto, parla chiaro però, Bortotto, il passaporto è un atto italiano, i documenti parlano chiaro, è imposto il passaporto, come l'anagrafe italiana è imposta. I tuoi confini quali sono? I tuoi confini quali sono, Bortotto? I confini sono quelli naturali della Repubblica Veneta quando sarà ripristinata nel 1700, dopo a seguito dell'occupazione francese del 1797, la Repubblica Serenissima. Chiusura Parenzo Bortotto. È stato un bel confronto, però Bortotto non si scaldi, però Parenzo Bortotto, chiusura, dai. Adesso la butti in caciara. Non esiste, non ascolta. Ma lui è Veneto, però Bortotto è Veneto, però Parenzo. Parenzo è Veneto, Ma certo, voglio dirti Parenzo è Veneto. Se è Veneto perché è nato qua, anche lo dimostri di essere Veneto. Ma come? Tira fuori le palle, Parenzo. Scusami, a me ricordo, voglio dirti questo. Al netto delle differenze, perché uno è un pazzo sanguinario, violento, eccetera. Chi sarebbe? Sei come il califfo. Sei come il califfo. Cioè il califfo si è autoproclamato califfo. Cioè, io buongiorno, chi è lei? Io sono il signor al-Baghdadi, il califfo. Ovviamente tu non fai il test. Date una regolata, perché qua nessuno fa il califfo. No, non ti do corda sui tuoi giochini. No, no, lui ha detto tu stai sostenendo l'Italia e tu, cioè, certo, devi salvaguardare il tuo stipendio. Io sono il capo del governo del Veneto, come il califfo. Non tagli le teste, ovviamente. Sei un buon uomo, sei simpatico, sei gentile. Ascolta, Adesso io basta. Io sono il califfo del Lombardo Veneto. Ma dai, va. Vabbè. Questo lo stai dicendo te. Intanto Lombardo Veneto non c'entra niente. È un esempio, Bortotto, per dire che tu ti sei autoproclamato presidente del governo Veneto e quello si è autoproclamato califfo. Io non mi sono autoproclamato presidente. Tra l'altro è un governo provvisorio proprio perché non è stato eletto dal popolo. È un governo provvisorio. E si erge solo non sulla base del consenso popolare, ma sul diritto. Ma puoi dire viva la Scozia? Bortotto, vogliamo dire viva la Scozia o no? Sicuramente viva la Scozia, sì, e abbasso l'Italia, viva la Scozia. Ciao, a presto. Questo poco ma sicuro. Ciao, saluti. Ciao. Salve. Quelli che minchiate che dite. Oh. Io ascolto la sua trasmissione saltuariamente e sinceramente non ho capito a cosa lei serve. Io non ho capito cosa vuole Dandolo adesso. Dandolo! Come stai? Mio grande amor, come stai? Bene, tu? Bene, ma che sei radio? Sei sempre la solita frocia, Dandola. Io ti adoro, Cruciani sei il mio mito. Scusa, Dandola, che cosa vuoi? Spiegami, tu lo sai che io sono in diretta alle 20:15, tesoro, amore. Ma io non so i tuoi orari. Ma lo sai che sono in diretta alle 20:15, amore caro? Io sono in diretta dalle 18:30 alle 20:50. Ma la voce è diversa quando senti. Ma non mi puoi chiamare alle 20:15. Scusa, Parenzo, questo è Alberto. Ha allungato l'orario. Dov'è Parenzo? È in Scozia. Parenzo, in Edimburgo. Stanno lavorando i posti alla 7 R3. Ti sta sentendo? Parenzo ha detto si stanno aprendo i posti. Non il 7%, che fai? Il 6? Ma il 10. Salva Rai 3, salva Fropis, come dice la cospia. Scusa, ma Dandola, perché sono appena... Dove sei tu, Dandola cara? No, non ho capito perché mi hai chiamato. Dove a questa ora, Dandola? Dimmi. No, ti ho chiamato perché devo fare un'intervista sul sesso. Ah, sulle MILF, sulle Cruciani e Zesso. No, sì, no, sulle MILF, sulla tua sessualità, che insomma è un universo da esplorare. Capisci Parenzo, mi vogliono fare un'intervista su... Ma me la passi un attimo, la sessualità, la Dandola. Di Parenzo, quella mi incuriosisce anche un po'. Questa è più la sessualità di Parenzo è molto più interessante in realtà. Molto io più Parenzo lo adoro, anche se insomma vaga tra queste redazioni, non capisco la collocazione. Parenzo! Dandola! È in Scozia. Ci sentiamo dopo, Dandola, ci sentiamo dopo. Sei sul cellulare? Ma veramente sono in diretta? Ci sentiamo dopo, Dandola. Sì, sì, sei in diretta, Dandola, sei in diretta. Dandola, ti adoro, lo sai, sei la frocia d'Italia più, sei la frocia d'Italia più maschia che c'è. Io non sono una frocia, sono una frociona. Non penso che ci sono frocia, A dopo, ciao. Ragazzi, è tutto in diretta, ecco, questo mi ha chiamato, che devo fare? Non rispondevo, scusa. A proposito, passiamo dalla Dandola, dalla nostra amica Dandola Parenzo, a quello che succede in Parlamento, dove c'è stata la 12ª fumata bianca per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale del quello che diavolo è, CSM, che cos'è? Sì. Allora, io vorrei dire una cosa, nessuno fa notare qua, a parte il fatto che non gli frega niente a nessuno, c'è però la è importante. C'è la votazione, sì, per la consulta, sì, la sì, Corte sì, Costituzionale. Sì. La consulta è un'altra fumata nera per questo duo Violante e Bruno. Nessuno nota una cosa, cioè nessuno rileva in questi giorni una cosa molto semplice. Che è un accordo politico. Eh? Che c'è dietro un accordo no, politico. No, nessuno nota una cosa incredibile. Cioè, i giudici della Corte Costituzionale sono uno dei più grandi scandali che ci sono in Italia. Cioè, allora, un giudice della Corte Costituzionale prende lo stipendio del primo giudice d'Italia, cioè del presidente della Corte di Cassazione, cioè 311.000 euro aumentato della metà. Il presidente incassa un bonus ulteriore del 20%, cioè in tutto il presidente della consulta prende 549.407 euro. Signori, sono questi gli scandali veri, altro che l'elezione, le fumate bianche, le fumate nere, gli accordi politici di cui non frega un cazzo a nessuno. Gli scandali sono questi, un giudice della Corte e nessuno interviene su questi stipendi e relative pensioni. 549.407 euro prende il presidente della Corte Costituzionale. I suoi colleghi prendono 457.839 euro. Questo è lo scandalo, non che non eleggono perché i partiti non si mettono d'accordo, chi se ne frega, funziona lo stesso la Corte Costituzionale. Allora, in Canada gli omologhi canadesi percepiscono 216.000 euro, nel Regno Unito 235.000 euro circa. La Corte Suprema americana 173.000, questi 549.000 il presidente, 457 i suoi colleghi. Per questo dovete incazzarvi, non perché qualcuno si incazza su Twitter, si indigna, beh, non eleggono fumata bianca, fumata nera, ma chi se ne frega di chi eleggono? Prendono questi soldi! E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Io dico solo che questo programma sì, dovrebbe essere soppresso. Tipi da zanzara. È diventata la radio degli animalisti. Ma ti pare normale che uno dica che gli animali hanno gli stessi diritti degli uomini? No, ma questo sono ma d'accordo con te, Giovanni. Questi, sì. Ma calci nel culo questi vanno presi. Io vorrei che tutti gli animalisti, se vedo un animalista che cede una zanzara, sì, mi incazzo. Sì. Se vedo un animalista che mangia il pesce, mi incazzo. Per cui tirano su quel cazzo di orso che hanno ucciso, che uccideva a sua volta altri animali oltre a rischiare la vita delle persone. Su questo. Però, nessuno si incazza, io oggi ho mangiato carne di cinghiale, perché non si è incazzato nessuno che ha ucciso un cinghiale? Sono razzisti perché tendono soltanto a difendere alcuni animali e gli altri no. Io la pantegana, perché me la uccidono la pantegana? Ho visto uccidere una pantegana, sì. Non ho sentito nessuno si è ribellato per però su questo e vaffanculo, sono razzisti questi razzisti contro degli animali. questi che hanno protestato per la morte della Danica, che cosa sono? Tutti imbecilli, dei cretini? Completamente, perché anche qui, perché quell'orso lì sì e gli altri no? Tutto ciò che viene ucciso, ripeto, ho mangiato carne di cinghiale, sai quanti hanno ucciso il cinghiale? Ucciso anche i delfini, il cervo, ieri ho mangiato una carne di capra, ero in Abruzzo, ho mangiato una carne di capra buonissima, ad esempio, in un posto dove hanno inventato la carne di capra. Tipi da zanzara. Allora, ci sono, c'è un gruppo, Parenzo, sì. I neo-borbonici, ti giuro. Aspetta un attimo solo. Che è successo? We have no room, sorry. No, completely. Grazie. No, completely è un'altra cosa. Cioè, no. Stai dicendo che non ci sono stanze? Che è fai? Arrivato un signore a chiedere. No, are you looking for a room? No. It's closed now. Ma non puoi dire così perché stai facendo la zanzara, scusa. No, it's closed. Scusami, there is no room now. No room downstairs. Downstairs. Okay, you go there. No room. Pronto. Ma scusa. No, mi hanno lasciato da solo al concierge, no? Ripetiamo sempre che Mediaset non ti paga una stanza col telefono a Glasgow, a Edimburgo, dove allora, diavolo sei? Io voglio dire questo all'amico signor Crippa, tutti allora, gli amici di Mediaset. Sì, sì. Hanno avuto la gentilezza di mandarmi qui in Scozia, meraviglioso. L'unica, l'albergo l'ho scelto io perché sono collaboratore esterno. In questo vabbè, non ce ne frega niente, però. Vedete questo, tuoi questo pianti, albergo scusa. Che ho trovato, che modesto. Sì, la cosa drammatica è che ieri hanno celebrato un matrimonio. Stamattina hanno fatto un convegno. Sì, sì. E siccome l'albergo c'è scritto che ospita pure funerali. Domani. Io francamente sto facendo nel dubbio le corna. No, scusa, domani è difficile però, i funerali nel giorno del referendum, però c'è certo. Uno non è che muore a comando, cioè se uno muore ma la cosa pazzesca è che non c'è il personale qui, cioè non c'è il, capisci, non c'è, andate a lavorare alberghi. Giovani italiani, andate in Scozia a lavorare, su dai. No, ma nell'albergo qui non c'è un consigliere. Ma però no? vorrei avvisarti di una cosa a proposito di questi movimenti strani. C'è un movimento che si chiama Movimento Neoborbonico. No, perché, anche questi no. No, perché ti prego, già uno che fa un movimento che si chiama Neoborbonico, vabbè, lasciamo perdere, che magari ci querelano perché sono facili alla querela questi signori. Ho visto perché hanno poi ce l'hanno un po' con noi, cioè il movimento già neoborbonico. Beh, cioè, vabbè, tu capisci? Ma non fanno male a nessuno, no, dai. Non fanno male a nessuno, però no, uno, tu, secondo rispetto, te però rispetto diciamo a Bortotto che si è autoproclamato Bortotto al Baghdadi senza tagliare testa a nessuno, perché la quello l'hai proclamato te Bortotto al Baghdadi. Però scusa, uno che si proclama governatore del Veneto e presidente di un governo che non esiste, che cos'è? Però scusa, è una brava persona. Però, allora c'è il movimento neoborbonico, io voglio approfondire questa cosa. Uno già che crea un movimento neoborbonico, ci sarebbe da discutere a lungo su questioni che riguardano la tenuta mentale. Vabbè, lasciamo perdere. No bathroom here, sorry. Ma no bathroom, che c'è. Allora, questo movimento. No, ma questo movimento neoborbonico. Questo movimento neoborbonico ci vuole rompere le balle con gli inserzionisti pubblicitari. Cioè, ha mandato lettere perché dice che io sono razzista, perché ho offeso Napoli. È vero. Perché, ma non è vero, non dire io stronzate. Testimonio a favore. No, senti, Parenzo, questa è una cosa seria, per cui non dire stronzate. Questi qua hanno mandato lettere agli inserzionisti pubblicitari, ad alcuni inserzionisti, quali ovviamente non conoscevano questo movimento neoborbonico, ovviamente. Certo. Però si sono un po' preoccupati, mi dice, vediamo che succede. Hanno mandato lettere a queste aziende, alle quali hanno risposto, noi non c'entriamo niente, noi diamo la pubblicità, eccetera, eccetera. Dicendo che dopo la tragica morte del ragazzo ucciso da un carabiniere a Napoli, non condivido la linea antinapoletana della trasmissione da voi sponsorizzata. Ma non è antinapoletana. No, ma aspetta, che il 5 settembre ha ironizzato sul cognome del ragazzo morto e ha parlato anche di napalm per risolvere i problemi di Napoli. Falso, perché ho fatto semplicemente una domanda. Voi liberi di sponsorizzare chiunque e di dichiarare quello che volete, noi liberi di scegliere i prodotti da acquistare. Vogliono fare una specie di boicottaggio. Adesso io non voglio dare spazio a questi qua del movimento neoborbonico, però amici miei, movimento neoborbonico, il movimento neoborbonico vorrebbe toglierci gli inserzionisti pubblicitari. Ma tu capisci che siamo arrivati alla fine di tutto semplicemente perché noi abbiamo detto che anche Napoli, con la sua illegalità, e lo ripetiamo, anzi lo ripeti anche tu perché sei d'accordo anche tu, anche Napoli ha contribuito alla morte di quel ragazzo, oltre naturalmente alla pistola di quel carabiniere. No, questo ti ho spiegato, io volevo semplicemente ricordarti questa cosa perché c'è un movimento neoborbonico che ce l'ha con noi, e pazienza. Ciao, 5 palle, Parenzo, vai. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Quello mai, caro Razzi. A proposito di Razzi, Sky ha realizzato una inchiestina sui soldi. Sui soldi, cioè su chi ha pagato il viaggio in Corea di Razzi, Salvini, eccetera. Ma in realtà il viaggio è stato pagato dai deputati e dagli imprenditori col proprio portafoglio per quello che riguarda la trasferta in aereo. E poi il regime nordcoreano, come lo chiamo io, ha pagato vitto e alloggio. Razzi. Visto che viviamo a Roma, posso dire che abbiamo fatto la romana. E cioè? Cioè ognuno se l'è pagato di tasca propria. Si è pagato il viaggio, quindi il viaggio aereo? Viaggio aereo tutto pagato da noi, anche taxi e pullman che ci siamo fermati a Pechino, due giorni di relax a Pechino, abbiamo pagato tutto noi. Dove avete dormito in Corea del Nord? Albergo Corio, bellissimo albergo, hanno offerto tutto loro. Fatto l'invito che eravamo ospiti dal... Quindi? Eravamo ospiti, solo che non pensavamo che ci pagava, che ci pagasse tutto sia il mangiare, magari noi pensavamo, eravamo ospiti come si sol fare. Come ospitalità, e quindi, ospitalità, quindi su questo... Albergo e colazione. Quindi... Siamo stati liberissimi di girare, siamo andati anche a mangiare a ristoranti diciamo classici. E qui chi ha pagato ai ristoranti? Ha pagato noi. Ah. Ci mancherebbe. Con che moneta? Moneta della Corea del Nord? No, noi abbiamo pagato con euro. Ma tu lo sai, Parenzo, che a Napoli... Però, no, comunque... però scusami, su questa sì. cosa l'inchiesta che giustamente fa Sky, su chi ha pagato, guarda che non è da poco. Cioè, sapere... Sì, poi in realtà Salvini ha detto delle cose un po' diverse no, da quelle vabbè, di Razzi. Aspetta, ma non è questo, io voglio concentrarmi su Razzi. Cioè, sapere che dei deputati... Ma con tutto il rispetto per chi ha fatto questa inchiesta, il fatto che i deputati e gli altri sono stati pagati dalla Corea lo sapevamo peggio. Già. Lo sapevamo. No, lo sapevamo già, ma però ci è passata, ci ha attraversato il cervello. E vabbè, ho capito, l'hanno pagati no, i coreani. Sai perché è molto grave? Perché è grave? Cioè, sai che in America se ciò accadesse verrebbero deferiti alla corte marziale? L'hai già detto, sì, non so chi l'ha detto pure. No, però la questione è seria, perché sapere che dei deputati sì. siano essi di destra e di sinistra, perché c'erano tutti in quell'anno. Però sono andati in Corea del Nord, dai, su, magari pagati, ospitati dal governo. Dal governo, sì, dal governo. Ma che... amico mio, ma deputati della Repubblica ospitati dal governo, che il governo li ha pagato l'alloggio. Un governo che uccide gli oppositori. Ho capito che tu non sei di cultura anglosassone. Ho capito, lo so. Ma no, ma che c'entra? Lo però... so che tu dici me ne frego. No, come diceva un illustre signore con la testa pelata tanti anni fa, me ne frego il nostro motto, me ne frego di morire. No, me ne ma frego la zanzara e del sol dell'avvenire. Diceva quello lì. No, della zanzara non me ne frego. Diceva così quello lì, me ne frego. Quel signore lì, al quale evidentemente alle volte ti ispiri. Perché Marco, col me ne frego. Assolutamente. Io non me ne frego sapere che dei deputati pagati 12.000 euro al mese da noi vanno in Corea del Nord ospiti di un signore che dà i dissidenti in pasto ai cani. Ma in collegamento dal mitico Trottoir di Milano, che è un locale molto conosciuto per chi frequenta per chi frequenta le serate, le notte milanesi, beh, un personaggio che non è mai stato qui, ma che lo sentiamo nello stesso tempo molto molto vicino, Andrea Pinkez. Buonasera. Buongiorno bastardi. Come stai? No, scusami. Malissimo. Come stai? Hai sbagliato, perché lui si chiama Andrea G. Pinkez, laddove G sta per grande. No. O genio a seconda, o gagliardo o romanesco a seconda, come vuoi. Come stai? Innanzitutto... Ti sento lucido ora. Io sto benissimo, sto da Dio come sto quasi sempre in questo povero Olimpo nel quale sono costretto a vivere. Ma in che senso Olimpo, scusa? È un luogo di dei, semidei, zoccole, nani, ballerine, è lo stesso posto in cui vivete anche voi due, peraltro. Beh, c'è cioè il mondo, se tu dici, la Terra, il pianeta Terra, cioè non è che tutti vivono adesso in mezzo alle mignotte, cioè, no. Andrea, però tu dici in senso figurato, non lo dici in senso, come dire, reale, poi anche tu le frequenterai ogni tanto le prostitute o no? No, io ho fatto per Esquire un grandissimo servizio per cui nel 1991 mi hanno dato sì. 1 milione per passare una notte con una escort sì. E allora scrivevano ancora Squillo all'epoca, sì, che funziona col telefono sì. E alla fine dopo la serata ha offerto lei. Ha offerto, ma alla fine sei riuscito ad andarci o no con questa qua? No, non solo, ha offerto lei, ha detto niente, siamo a posto. Siamo a posto perché ha offerto lei, cioè non è voluta... Che dimostra la mia esuberante virilità e soprattutto il fatto sì. che io sono a favore della prostituzione quando la prostituzione è controllata da me. E quando la criminalità organizzata, capito? Cioè, e dunque quando la prostituzione è controllata, è legale, organizzata e tutto, o no? Certo, se io sono. Ma scusa, però questa tua attività questa tua attività fisica risale al 1991, cioè sono passati alcuni anni, cioè la tua virilità è ancora la stessa, scusami Andrea, scusami se te lo chiedo. Ma sai, io sono come la statua dell'Apollo del Belvedere, capito? Cioè? Ragion per cui sono un simbolo. La mia virilità è chiaramente diminuita. No, io tu pensa che ho vinto il premio, il Priapo d'oro a Siracusa. Ma veramente? E non era una gara tipo, non so, Mister Italia, il più bello d'Italia. Sì. No, era proprio per lo scrittore più cazzuto in circolazione. Quindi una cosa che ci fumiamo il premio strega, ci fumiamo tutti i premi corrotti o corruttibili. Ma guarda che lo vado a controllare questa cosa del Priapo d'oro. Priapo d'oro, aspetta, ti dico la data esatta, 2003. Ma scusa, in base a che cosa veniva dato questo Priapo d'oro? Allo scrittore più cazzuto. Ma come faceva? Come no, faceva? Attenzione, non in sensi... Non nel senso di centimetri, ah. Lo scrittore con più attributi, ho capito. Più... esistono aggettivi, sì, appunto, sì, attributi in analisi logica. Nella mia ignoranza poi, so anche questo, sì, so anche questo. Che tu sei molto ignorante, per questo ti illustro. Assolutamente, ma tu fai bene, perché la mia ignoranza deve essere ogni tanto anche sottolineata. Ma Parenzi... la cosa bella, dimmi. Che l'ignoranza è una delle poche malattie curabili. È vero? È vero, anche se uno poi anche se uno in realtà potrebbe anche decidere di non curarsi e restare ignorante come me per tutta la vita. Però io ti voglio chiedere una cosa, anzi lo voglio chiedere a Parenzo, secondo te quanto ha bevuto fino adesso? Sono le 20:43, Andrea G. Pinkez. Ma questo è un dato non rilevabile. Io lo conosco da 20, da 18 anni, da 15 anni, Andrea sì. G. Pinkez. Sì. Una volta, non so quanto ha bevuto, adesso sicuramente qualcosa ha bevuto. Dopodiché, siccome ho sentito un grande amico, una volta fu addirittura cacciato dagli studi di Tele Lombardia e noi forse non ci vediamo da dall'epoca. Tuo zio, tra l'altro. No, lui non era lo zio, era l'amministratore delegato che scese giù e ti ricordò, forse si può ricordare al signor Cruciani questo episodio. Signor Pinkez arrivò e chiese un paio di birre durante la diretta, sì. E questo va benissimo. A un certo punto però accese un sigaro durante la diretta, tutto questo. Sì. Anche i tecnici di studio dissero non si può fumare perché sennò scattava l'allarme. Sì. Lui si alzò in piedi, ma dimmi se sbaglio nel racconto, dice a me non me ne frega un cazzo di quello che succede. E continuava tutto in diretta e continuava a fumare. A un certo punto scese l'amministratore delegato, il mio amico il signor Besso, che sì. Può anche conoscere, che gli disse scusi, se questo signore non spegne il sigaro dobbiamo andare via. E il signor Pinkez, non capendo chi fosse, dice io questo qui lo spengo per terra e me ne vado perché mi sono rotto i coglioni. Quindi ha spento il sigaro in diretta e se n'è andato. Ricordo il record di ascolti in quel caso, eh? Scusami. No, a parte il record di ascolti, ti ricordi male, perché in realtà no, io ero assolutamente... No, adesso hai la voce impastata, sei già... Quante birre ti sei fatto, Andrea? Scusami. No, allora, intanto ho una birra, è la prima della giornata, perché devi sapere che mi sono salite le transaminasi, quindi non bevo più... tonico. E che bevi invece? No, sto bevendo una birra, però purtroppo a causa vostra sono costretto a berla al piano superiore. Sì. E invece la birra è qualcosa di inferiore, qualcosa del trottuare. Ma tu lo capisci Depardieu, che beve 12-13 bottiglie di vino al giorno e dice di non essere alcolizzato, che è una puttanata inaudita, perché uno che beve 12-13 bottiglie di vino al giorno è chiaramente un alcolizzato, diciamo la verità. Cioè, no, allora un alcolizzato no. Alcolista esuberante, diciamo. Beh, dai, un alcolista. Tu quanto bevi? Quanto bevi abitualmente? Andrea, no, quanto... ma guarda, io adesso ti dico, sono a dieta, ho perso 10 kg. Poi io non ero ubriaco quella volta. No, ma in generale, amico Parenzo. No, volevo fumare. E questo è diverso. Io sono ancora Pure le canne ti fai, Andrea? No, le canne no, vado a Cannes e a Cannes nessuno è preso, quindi può succedere. Senti, ma è vero che hai un'ammirazione per Putin, qualcuno mi dice? Per Putin, sì. Cioè, ti piace Putin? Mi piace Putin perché intanto io vengo dalle arti marziali e lui è maestro di judo e secondo me è uno che sa come cadere, come rialzarsi, sai che cadere è la prima cosa del judo. Poi politicamente io, essendo ovviamente russo, come testimonia il mio cognome, io russo solo quando dormo, quindi cioè nei confronti di questi statisti italiani, statisti o pseudotali italiani, non c'è paragone, dici, rispetto no, secondo me, guarda, dovrebbero unirsi Putin, che è un anti-Napoleone, secondo me. Perché mentre Napoleone è un espansionista, Putin è un conservatore. Ma cerca di conservare, a mio parere, la Russia. La Russia. Ma Renzi ti piace invece? Renzi, a me, te l'ho detto, sembra... No, non te l'ho detto, l'ho detto al tuo amico prima. Che hai detto? Ma è una specie di Pieraccioni della politica, quindi è un buonista. No, è un buonista, è un ottimista per se stesso e per il paese. L'ottimismo non va sottovalutato, forse non va valutato tantissimo il fatto che Renzi ci sia simpatico, questo è molto però scusami, non mi tolgo dalla testa il fatto che tu stasera un paio di birre te le sei fatte, almeno due o tre te le sei fatte, dai Andrea, no, su. Ma sei fissato con la sono birra? Fissato, sono birra, vino, whisky, che ne so. No, ti ho detto, sono diventato quasi totalmente astemio, dopo le transaminasi alte, sì. Io adesso per un anno non berrò più assolutamente Cuba Libre, leggi. Ma quante ne bevevi prima? Ma solo birra? Ma no, ne bevevo normalmente, come Bukowski, come Hemingway, come tutti i grandi scrittori. Ma io mi ricordo, ne bevevi 9 o 10 al giorno. Come Gerald, hai capito? Cioè, la dieta dello scrittore, cioè non è che puoi scrivere se non hai bevuto qualcosa di solido. Ma assolutamente. Ciao Andrea, presto. Presto. Ciao, ciao. Finito. Ma intanto ci risentiamo, non ti preoccupare, ci risentiamo. Ciao. No, ma hai chiuso qua. Aspetta, un'altra volta. Non mi dici neanche il titolo del libro che ho scritto. Vabbè, ma lo facciamo. Che libro hai scritto? Ultimamente ne scrivi tanti di libri. Che titolo hai scritto? Ho una tresca con la tipa nella vasca. Ah, così ho una tresca con la tipa nella vasca. Beh, Mondadori. Beh, ragazzi, ho una tresca con. Ma tu riesci ancora a fare qualcosa? Sesso? Riesci? Sesso e volentieri. Ciao. Da Padova, Naf. Ti chiederei cortesemente, caro Crocetta. Dimmi. Crocetta, vero che ti chiami? Dimmi, Naf. No, ci siamo sentiti l'anno scorso, però cortesemente avrei bisogno di 5 minuti. Se ti chiedo di chiamarmi domani, perché qua abbiamo un minuto adesso, cosa abbiamo? No, ma dimmi una cosa, però. Intanto dimmi, poi ti chiamo lo stesso, dai, dimmi. Guarda, è una cosa un pochettino complessa e lunga. Comunque, guarda, come si chiama qua? Anime grette, vi detesto, in voi non c'è nulla di buono, e di cattivo quasi niente. Dilli a quella che è tetta morfinomane, poi dal Parenzo, che è uguale sei anche te, Sì. Che quando vuoi correggermi sul Dante, ti ricordi l'anno scorso? No, non mi ricordo, NAF, questo si chiama pure NAF. Ma guarda, ci sentiamo domani che facciamo con più calma, non ti preoccupare, tanto prendi un sedativo. Fabio da Roma, Fabio, veloce. Fabio! Vabbè, penso che ormai c'è poco tempo per parlare, ti dico solo tre cose veloci. Dai. Visto che tu prima hai detto che prendevi dei premi, non so da quale parte devi andare a ritirare. Sì. Sicuramente ne vinci due tutte le sere, perché uno per la trasmissione più bella che c'è e uno perché sei il più grande testa di cazzo d'Europa, quello in doppio, quindi prendi questi due premi. Ottimo, poi? Un'altra cosa veloce era sul fatto che non si sopporta questa cosa del traffico, perché non c'ha nessun senso su una radio nazionale dirmi che a Padova, a Milano, eccetera. Levala questa cosa, la pubblicità ci deve stare, servono i soldi, ma sta cosa entra. E poi hai bisogno del dentista, sicuramente. Cazzi miei, a domani, ciao. Allora, innanzitutto la Zanzara è diventata ormai un programma dove il trend lo dà il conduttore è un imbecille e quindi si circonda di imbecilli, d'accordo? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Spettacolare, spettacolare. Radio 24. La passione si sente.